kazali mabe azana oyo aringi azana oyo aringi azana oyo aringi tatanko itangwa kiboki da Sonyo suto kokimaniye Kasitango akuzonganako Mama koi aligi kakaye Eloko nyoso ezaliki to Ya, con lo acopesan a